Aspetta, sto entrando fuori un amico di zona qua. Se si vuole far sentire, se l'ho ascoltato di assassa, di po'. È una mala zoppa che sei sui vicini, guarda, ti dici il vicino casino. Aspetta un attimo, mi chiamo io, qua, aspetta, dimmi. Mi chiama? Sono Alex, a me senti un locatino. Santiago no, quella di 5. Dove è Alex? Ti rido. Campagna vabbè, se vuoi. Tore, avanti, Tore. Sono giù, va. Ehi, aspetta che... già arriva qui, per esempio, già sentirà gli splatteri. Vesti badinatemi, Tore. Lì a mancanza, sai che lo richiamo, riprendi. Dove sei, bello? Qui c'è, Tore, se non volesse. Chissà. Il suo canale deghe brucia il genio. Ma dimmi tu. Adesso ha piazzato lo sto capo. Via. Tutto Roger, come ti sto arrivando io? Sì, è poco più di 9, dai, radio 5. Prima com'era, lo mantenni. Forse era di meno, praticamente di meno. Ma è... sai cosa, non è che cambi. Diciamo che il capogrosso hai meno perdita, meno rumori, capito, del capo sottile. È più scarmato, ecco. Rumori, cavolo, sto intercettando roba di QRM, che... però sento anche quello da Iti, lo sento bene, prima non l'ho sentito. Giuva, vedete Alessandro. Giuva. Tu lo senti tanto Alessandro? Sì, sì. Ciao Alessandro, è un disegno. Sottoterra, sottoterra. No, in campagna sono. Non so se mi ascolti, io ti ascolto abbastanza bene però. No, no, anche io ti ascolto bene. A me stai arrivando... sì, dai, Santiago stesso. Va bene, ho fatto una modifica, ci ho messo il capogrosso dall'antenna. Non funziona. Adesso fai il tender. Dai, vai che ho fatto. Allora, aspetta, aspetta un attimo così. Magari scendi anche a Torres, Torres, ci sono arrivato? Sì. Deve essere che è un'altra persona, sa. Che c'è tutto il tempo, Torres? Se intende Alessandro, Giua. Alessandro? Ti sento io, non so se mi ascolti. Va bene. Attaccatoci Alessandro. Non mi sei attaccato. Cosa no? Attaccatoci al cattore. Guarda, ho chiamato. Aspetta che ho un attimo, vuoi Alessandro? Giovanni, mi senti? Mi senti Giovanni? Qua è Alex che chiama. Mettere giù. Oh, te lo nudo, non sei una risciata. Vabbè, dai, ti vieni dopo, come fai passato a te. Lì, forse adesso, appena, io appena di rumore. Santiago 3,2, ma sei morto come missione. Buongiorno Giovanni da questa parte, non ci sei troppo. Lu. Come senti Antonio, guarda tu. Non mi senti a me? Usa ancora, mi paga ancora. Quanto è Antonio Giovanni? Dai, che sono, non arrivano qua, non per niente. Strano. Tutti i giocatori lì, so. Stanno volando una scatola di start. Aspetta, ore. Mancante. Vabbè, la riprendi, scusami. E da niente. Io arrivo sempre, come no? Proprio oggi non arrivo, mi sembra strano. Sono T7, non T7. Devo dire che se QRM è alto. E comunque, Alex l'ho passato. Vabbè. Diciamo che è più favorevole a te che a lui, per le parti di la bandetta, esatto. Cosa ti volevo dire? L'antenna sembra così, ma conta molto. Mentre che tu hai un baracchio di vari, che hai pagato 3-4 miliardi quando non fai l'antenna, cosa ne fai? Già, io. Mi ha modo di dire, no? Sembra così, ma l'antenna conta molto, adesso il telefono. Io farò anche il terra di mezzo. Ah, io faccio il terra di mezzo. Come la 48 normale. Io da là. Così che ti ascolto, lì. Ma come ti ascolto? Che così non mai mi dà il tuo. E adesso non ti sento. Non ti sento, tu. Ho capito. passaggio non ti sento, vuol dire che hai toccato qualche cosa adesso. Alessandro. Sono in macchina, sono in scusate, in mezzo alle montagne. Ah, però mi è arrivato pure non qua. Sono un cambio o meno. Avanti. Segnale quasi off, radio 2, zona di modulazione, la mia, molto rosello alto. Ciao, ciao. Chi è l'amico? Avanti, chi è? Buono, ciao, chi è? Io sono un po' Santiago 1, sono favorevole dalla parte mia. Qua invece sentiva radio 9 e Santiago, radio 5 Santiago 9. Vabbè, io sto in un'altra zona, in zona di Maletta, sono dall'altra parte, mi è arrivato Santiago 1, ma l'ho sentito. Yeah. Io lì quando ti arrivo, Alex? Mi arrivi in radio, vabbè, radio 5, e segnale basso, segnale 1-2. Vizia, oggi va abbastanza bene. Secondo dove ti trovi va abbastanza bene. Questo anche col microfono normale, già, a voce, dai. Se ti metti una manta va, oh, io esci bene, altro che. Ma io non me la posso mettere perché ci sono diversi motivi. Altrimenti non ero stato aspettando nessuno, no? E comunque questa antenna già mi dà abbastanza soddisfazione, dai. Oramai quella lì posso metterci solo. Mi ha dato tante soddisfazioni, sono arrivato, vabbè. Mi sento abbastanza bene dappertutto, così che non mi posso lamentare. Certamente non ce l'ho sul testo, però no, non mi posso lamentare fino adesso. Mi trovo, ci sono problemi e sul testo non la posso mettere. Ah sì, no, è un'antenna, sembra chissà cosa, buh. Non sai cos'è, quando la gente rompe le palle, non si può mettere niente, hai capito? Quando succedono anche cose che non devono succedere, meglio lasciare le cose tutto come sono. Per fortuna, rispetto, adesso già mi sentono da tutte le parti, ho questa antenna qua, mi faccio sentire. Dove arrivo, arrivo, dove non arrivo, pazienza, mi resterò così al momento. Lasciamo tutte le cose come stanno. Ma scusa un attimino, facendo il caso che mettate l'antenna, e tu come fai a modulare? Io sono connesso, io sono di questo connettore, ok? Ma che può fare? Ma sta scherzando, mi buci i baracchini, io sono purtroppo vicini, non fanno, come fate? Tu conta, forse ognuno non mettiamo un video. Picchietta! Si vedi... Ah, guarda, io l'avrei potuta mettere, l'avrei messa, non me ne ha fregato niente, né di una né di due. Vabbè, una grande e una piccola, e guardavo di finita. Per molto però sto sopra e sto molto di più, perché sono molto più forte. Dai, casino, casino grande grande. No, non era uno. Sì, però non sono stati qua. Sono stati dei problemi. Ho la vecchia, utile. Ma c'è bisogno, ma cosa stai facendo qui della vita sopra di me? Vabbè, comunque. Non c'è problema. Ti guardo quando male mi piace. Faccio, perché poi magari ti fanno qualche cosettina, ti viene nervoso e poi fai quello che non vuoi, quello che non vorresti mai. Infatti, Sandro! Alessa! Vai tu! Ce l'hai il Pintanera, il primo che ha fatto? Sì, sì, sì. No, ti porto il CD domani, me lo masterizzi. Perché quello che c'ho... era l'uno, prova che l'ho fatto, lo messo a doppiare e dice il tuo graffiato. Infatti l'ultima volta arrivo a Dairo per doppiarlo, è tutto graffiato. Cosa non faccio, dai? No, è troppo utile il CD domani, no, no, non c'è problema, domani me lo faccia. Domani, dopo domani. Vuoi CD ancora? Dopo fare alcune cose qua, ci sentiamo dopo. Sì, anche io pure io qua. Cioè chiudo, ma non ascolto, ma devo fare una cosa da pulire. Ci sentiamo più tardi.